que sea solo el ser. Cuero que le dona su beso. Oriente misterio, solo cielo e niente più. Eppure, oltre al tempo, qualcos'altro ci sarà. Non voglio immaginare. Mi volevo vendere un seminterrato in cielo. Sia solo cielo, quello che vedo lassù. Nessun Dio, niente mistero, solo cielo e niente più. Sarà.